quanto tempo, eh? Da quanto tempo che alle 22:43 nella fattispecie non riprendevamo a trasmettere dagli 87 e 9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Sfidando il coprifuoco, certo che tipo un anno fa. Non avremmo mai pensato di dover vivere in coprifuoco. Penso l'ultima volta che ne ho sentito parlare da parte di mio nonno. E invece no, eccoci. Eccoci, ma non lo sfidiamo affatto il coprifuoco, perché ci serviamo, utilizziamo dei potenti mezzi di onda rossa che ci permettono di trasmettere forse con un livello qualitativo un po' più scarso, però ci permettono di continuare la lunga, lunghissima saga ininterrotta di tormento che viviamo ormai da eoni. Da eoni, no, da lustri. Hurry up, the stage awaits you. Però insomma, dai, per quanto gli anni ci aiutino, diciamo, a sentirci in qualche modo a nostro agio, sia che trasmettiamo dagli studi della radio quanto ci mancano, sia che trasmettiamo da altrove, però insomma, parlare a Radio Onda Rossa è sempre, dà sempre un po' di emozione, insomma. Allora, Radio Onda Rossa, che dicevo, dà emozione parlarci, dà emozione sentirla, perché è una radio che trasmette libera da più di 43 anni ormai. E lo fa grazie al contributo di voi tutti e tutte che avete sempre sostenuto questa emittente. Una radio di movimento, come si diceva un tempo, che dai movimenti, dalla strada, dalle lotte, dalle piazze attinge tutta la sua energia per vivere. Quando i movimenti sono alti e quando i movimenti sono bassi, una radio che non manca di far ascoltare la propria voce, la vostra voce, ed è perciò che vi chiediamo un contributo. La campagna di finanziamento che si è conclusa non raggiungendo, diciamo, quello che era il nostro obiettivo, però insomma, poi sapete che quello che dice internet è diverso da quello che entra effettivamente dentro le casse della radio, però raggiungendo un buon risultato di finanziamento anche per quest'anno, presto dovremmo ritornare a farci sentire. È uscita la scarceranda, è un po' più difficile presentarla in giro quest'anno, però lo faremo senz'altro e ve ne daremo conto, vi racconteremo, vi diremo, vi annunceremo dove andremo a presentare la scarceranda. Non mancate comunque di acquistarla, di venirla a comprare, la spediamo per posta, eccetera, eccetera. 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Rivolci 56 00 1 85 San Lorenzo, Roma. 06491750, recapito telefonico, ma non vi risponderà nessuno questa sera perché non siamo appunto in radio. Forse vi risponderà anche qualcuno, perché magari qualcuno c'è, ma non ai controlli della selezione di questa notte. info, il sito della radio, trovate tutte le informazioni che vi ho testé annunciato e riassunto. Eravamo tutti pronti per la scorsa settimana per iniziare a trasmettere, non ci siamo riusciti per un problemino tecnico, però la scaletta l'abbiamo lasciata praticamente identica a quella che doveva essere mercoledì scorso. C'era un piccolo gruppo d'ascolto collocato in zona Gigio Fantasma. C'era pure Jacopo, sappiamo, c'era Nico de Tiresia Raptus. E questi invece sono gli Urs, che gradirà anche se con una settimana di ritardo.

alla chitarra, voce, batteria. E questa era Rattamatta, sotto la nostra voce invece Izzari. Dicevamo puntata che va. Una settimana di ritardo riguardo a quando l'avevamo pensata, con gli ospiti a distanza di cui vi dicevamo prima, e che hanno selezionato appunto ognuno di loro una traccia da ascoltare, così tanto per riprendere dimestichezza con queste attrezzature. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza www.ondarossa.info, anche per ascoltare la radio in streaming. In realtà è lockdown, e zone di pertinenza permettendo, pensavamo di fare quest'anno, almeno per le puntate della trasmissione, così regolari, in mancanza magari di ospiti o di altre evenienze. Per questa stagione 2020-2021 pensavamo appunto di parlare di meno, di invece elaborare di più attraverso i marchingegni della radio, e quindi alternare o anzi sovrapporre ai suoni pezzi, angoli dei suoni che è possibile rilevare in rete e costruire quelli che la scorsa stagione radiofonica avevamo chiamato come trip virus. Proporli invece live. Giocarci un po' sopra, in questo caso lasciamo Trip Virus perché il nome è tutto azzeccato, si tratta di un viaggio virale diciamo, ma lasciare un po' da parte il Covid invece, che comunque è centrale e finirà sempre per entrarci dentro, però ecco, in quanto condiziona ovviamente le nostre vite, ma distaccarci un poco da l'indigestione, diciamo, che abbiamo vissuto in questi mesi, non ci ha abbandonato in tutti i sensi, sia nel senso del microbo che continua a imperversare, sia nel senso dell'informazione che lo riguarda. Dunque, Megadeth, questa l'aveva scelta il fantasma, Pissers. sentite non avete sentito nulla. Ora rimandiamo pure da capo. Dicevamo, non l'aveva selezionata il fantasma, bensì Gigio. Ci scusiamo per averla introdotta male, la rimandiamo tutta da capo, non vi preoccupate. Dicevamo, accoppiata vincente in questo caso di Gigio, Pixels, Megadeth e Cannonau, da capo. Riguarda Nico, Nico dei Tirasa Raptus, Raptus e di Urz, che aveva chi ha scelto questa allucinata versione di, che già allucinata è di per sé, di Have You Experience, cover di Jimi Hendrix riprodotta da Psychic TV. E mentre c'è chi celebra il declino e la fine dell'impero americano, e ci riferiamo a un nostro corrispondente, ormai possiamo dire così, anche lui presenza molto saltuaria, però presenza in qualche maniera, sappiamo che è presente. Stiamo parlando di Marco P38 Punk, quindi da capo Have You Experience Psychic TV. Twice di Motörhead era la selezione del fantasma. Ma come dire, uno butta il 3 di bastoni, ovviamente, e si risponde con l'asso. Lair of Minotaur, Burning Temple, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, 23 e 22 minuti prima. e ci avanza persino il tempo di andare a presentare una un'uscita che c'è arrivata in radio. Per quanto riguarda Hollow Bone, un'uscita di questa estate, un lavoro apprezzabile. Abbiamo ascoltato il sacro dischio Second School. Hollow Bone è un progetto post-core, direi, ma insomma le definizioni lasciano il tempo che trovano. Stiamo parlando di Matteo Bennici e Bruno Germano. Lavoro apprezzabile che strumentale, che non mancherà di stare proprio sia nelle nostre selezioni sia nelle nostre selezioni, come dire, adulterate. Five o'clock, Radio Onda Rossa. Passiamo velocemente, ma dico velocemente, a altri temi. Hai non lugar como de la casa? Hai non lugar como con la casa? California, per quanto riguarda Sugar Ray, in questi tempi così tanto veloci. E ai noi non riusciamo a mandarla addirittura dal plastica, dal vinile. E per questo non vediamo l'ora di tornare presto negli studi della radio e mettere in moto i Technics

tratto di un più lungo trip virus. Per l'esattezza, psicomplotto trip virus. Va a capire quando l'abbiamo messa su questa roba. Maggio alle 19:57 per l'esattezza.

Io le facevo fiumi di domande e tu con abbatto di una sola, ma che dico? Con colpo d'occhi suscitavi boati di risate. Boati, boati. Ah no? Adesso non ci senti. Un po' in più. Ma il tuo repertorio che rispecchiava l'anima di Roma resterà sempre nella storia del teatro. Ti ricorderò sempre, Formichella, nello sketch del ristorante, quando io da stronzo le chiedevo: cameriere, che c'hai dei dolci? E tu subito mi rispondevi: non lo so, vado a vedere in cucina. Che? Mi fai dire? Ti ricorderò sempre, Formichella, quando accompagnandoti con la chitarra cantavi: io sogno sempre i baci tuoi, i baci mendaci tuoi, i baci mordaci tuoi, mortaci tuoi. E ti ricorderò anche nello sketch della telefonata d'amore, quando il telefono gli dicevo: pronto? Pronto chi parla? Pronto? Chi è? E tu rispondevi: sto cazzo! Fai tre tic! I tre tic! I tre tic! Che? Dai! Ho tre tic che sono nervosa, sono poco balbuziente, quando canto non si sente, quando parlo invece sì. Primo tic è raganella, secondo è un fischiettino, il terzo è un fermentino, mi tormenta tutti e tre. Un mio carissimo amico di Cuneo mi ha dato una lettera di raccomandazione per il direttore della Rai TV per un posto di speaker. Mi sono presentato e mi sono messo in fila. Quando è arrivato il mio turno ho detto, direttore, questa è per me. Mi hanno buttato fuori. Ansia, febbre, predia, luci, voci, fantasia, oh, l'amor, pregioni, le parì. E questa è... tratta dai nuovi mostri. Il funerale di un comico e non poteva mancare comunque. Un ricordo proprio per Gigi Proietti. Recentemente scomparso, ricordiamo, Gigi Proietti fu uno di coloro che nel marasma degli anni 70, insieme a Dario Fo, Franca Rame e tanti altri, uscirono dai teatri e andarono nelle tende, nei teatro tende, dove si entrava, dove si stava un po' scomodi senz'altro, ma si entrava. In molti, io stesso credo che andai a vedere proprio Dario Fo in un teatro tende, e portava appunto, riportava il teatro, la commedia dell'arte nel teatro appunto quello popolare. Ricordava proprio Gigi Proietti nel gran freddo che c'era d'inverno nei teatri tende, di come appunto gli attori avessero dovuto recitare appunto in condizioni che non erano solite, ma penso una grande soddisfazione anche per loro stessi di partecipazione eccetera. Vabbè, un ricordo insolito, non con la voce di Gigi Proietti, ma con uno sketch di Alberto Sordi, appunto tratto dal film dei nuovi mostri. Italy. No, you not from around here. Ay, yeah. No, you not from around here. Ay, ay, they know you not from around here. Yeah, yeah. No, you not from around here. Yeah, no, you not. No, you not. Yeah. I been speeding in the band. Yeah, never cheated on the test. Yeah, pull up in a fucking test. Yeah, Jesus peace around my neck. Yeah, make you bleed out your neck. Make you bleed out your neck. Yeah, enemies turn to friends. Yeah, enemies turn to friends. No, you not from around here. Nah. Ay, no, you not from around here. You ain't pop no gun, you ain't throw no coke. You ain't violated one penal code. You ain't never hit a lick with the game, bro. You ain't never did shit for the game, bro. You can't hang on that thing. We don't know you, but you claim. That's a shame, that shit strange. Poser, you an imposter, ayy. All real members on the roster, ayy. Shout out all the real shots, just ayy. Slide up on a fake nigga with the K. Real nigga, take a fake nigga back. That's a shame, that shit strange. Poser, you an imposter, ayy. Slide up on a fake nigga with the K. Real nigga, take a fake nigga back. Love, please, Heavenly Father, protect me from all fake-ass motherfuckers. Your name, you pray, amen. No, you not from around here, ayy, yeah. No, you not from around here, ayy, ayy. They know you not from around here, ayy, ayy. No, you not. not from around here. No, you not. No, you not. No, you not from around here. Hey, yeah. No, you not from around here. Hey, hey. They know you not from around here. Hey, hey. No, you not from around here. No, you not. No, you not. Uscita del 2019 Fiat Fit Xenia Rubians. Deploy it twice, Battles, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. We'll be right back. poi Slim in una versione però remix del Clark. Retox or freak in me, retox or freak in me, retox or freak in me, retox or freak in me, retox or freak in me, retox or freak in me. Pensavate di esservi liberati retox di noi? Freak in me. The doors on the left side are open. Please change your tour, the dual line, the Shonan Shinjuku line, the Baikyo line, the Odakyu line, the Keio line, the Marunouchi subway line, the Shinjuku subway line, Baikyo line, the Odakyu line, the Keio line, the Marunouchi subway line, the Shinjuku subway line, the The next station is Shinjuku, J-1-17. The doors on the left side. fresco fresco di stampe. And we wants to find da poche ore, oserei dire. Sonorità che ci catapultano a bomba negli anni Ottanta. Perché proprio da quel tempo loro provengono attraversando 40 anni e più e Sarkian Radio. Da qui abbiamo ascoltato Yo-Yo Jill e questa è Super Freak Sarkian Radio. Con questo noi andiamo a concludere 26 minuti dopo la mezzanotte sfidando il coprifuoco. Non nel senso che lo sfidiamo materialmente, ma d'altronde questa è il modo di agire di questi anni, primi 20 anni di millennio. Tutto è didascalico, tutto è spiegato, tutto è virtuale. Però siamo comunque felici di aver ripreso microfoni e macchinari per cercare di produrre delle selezioni che vi possano accompagnare non tanto dei vostri spostamenti in auto, perché si può girare poco, ma così in qualche maniera sfidare tutti i vecchi e nuovi media con una radio FM. Questa è Radio Onda Rossa. Ricordiamo il sito www.ondarossa.info, andate a vedere su Sostieni come fare per far sì che questa radio, che trasmette da 43 anni, possa continuare a produrre informazione e cultura, contro informazione, contro cultura. Nothing is what it seems. Take my hand, take my dream. Vedremo quest'altra settimana di riproporci. Per ora accantoniamo i Tripvirus Live. Però abbiamo in serbo così tante cose da ascoltare noi stessi, vecchie e nuove, soprattutto vecchie, qualcosa anche di nuovo. Altra uscita recentissima, l'ultimo disco degli Idols, così tanto per citare a memoria quel che abbiamo in serbo. Le trasmissioni riprenderanno domattina con la consueta scaletta, quindi rassegna stampa cittadina, in redazione della mattinata e poi tutto scena cinema. A memoria non ci ricordiamo poi tantissimo, comunque. Non so se è ricominciata Attica Blues, non l'abbiamo risentita ultimamente. La schiena del Sol c'è, sicuro, Mezzedes e poi Tabula Rasa e Apostasia. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai! Yeah. I'll share our dreams under a communist.